voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Ventesima puntata. Sogno. Una notte Piero, direttore di banca dal naso grande e grosso, fece il sogno seguente. Cercava in un cassetto del comò, lì nella stanza da letto dove dormiva, frugando e buttando all'aria ogni cosa, con un'agitazione via via più angosciata, una vecchissima penna stilografica, marca Olo, dei tempi del ginnasio. Ma per quanto frugasse, non la trovava, pur essendo certo che doveva essere lì dove era stata per anni. E già aveva il pianto in gola, una disperazione, un'angoscia di bambino. Non si sa come la penna era sparita. Ma come poteva essere sparita se nel sogno ricordava benissimo non soltanto che era sempre stata lì, ma che quasi quotidianamente la guardava per un attimo, il tempo bastante per ricordare come e quando la penna era apparsa nella sua vita ed era diventata sua. Questo non accadeva nel sogno, ma durante il giorno, quando appunto la vedeva, nel suo astuccio, quasi nascosta tra il mucchietto ordinato dei fazzoletti, tra un sacchettino di lavanda e la parete interna del cassetto. Di giorno, guardandola, si ripeteva chiarissima come in un film la scena di se stesso, ragazzo, con gli occhi fissi alla vetrina di un cartolaio. Era fissata con un elastico a un disco di velluto amaranto assieme ad altre, una penna di bachelite bianca e blu, screziata, come marmorizzata e simile alla malachite ma blu e con certe vene che facevano pensare alla madreperla. Guardandola e ammirandola, immaginò che fosse sua per molto tempo, finché un giorno, fermo come molte altre volte in ammirazione davanti al cartolaio e in compagnia di suo nonno, manifestò timidamente, come solo lui sapeva essere timido, la sua ammirazione. Fu un istante. Il nonno, un massiccio proprietario terriero di nobili discendenze, dal naso grande e grosso come quello del nipote, ma più anziano, di venuzze e pori, ebbe un lampo di affinità negli occhi sensuali e disse: «Ti piace proprio tanto?» «Sì», disse Piero, con un timbro di voce che avrebbe avuto un'altra volta soltanto nella vita, il giorno del matrimonio e poi mai più. Quella però era la prima volta, e il «sì» quasi non fu udito dal vecchio, che percepì invece un rantolo, una specie di squittio. Il vecchio, vestito con pelliccia interna di castoro e una lobbia nera, lo prese per mano ed entrarono dal cartolaio. Era il giorno 12 di gennaio del 1944, in una calle oscura e fumosa di Venezia, accanto a una friggitoria. Qualcosa scendeva dal cielo. Non si sa se pioggia o fumo, o microscopica fuliggine di tubi, di stufe, o la prima nebbia del pomeriggio. Piero non capiva ancora quel che stava per succedere. Era quello che si dice un momento di massima epoché, di sospensione. La penna fu esaminata. Piero capì le parole 18 carati, non udì il prezzo. Ebbe la penna in mano e per un momento gli fu tolta dal cartolaio, che la riempì di inchiostro blu. La immerse nella boccetta Pelican a piramide tronca e Piero sentì il risucchio della pompetta di gomma. Poi la penna gli fu riconsegnata dentro un astuccio di cartone, finta pelle di coccodrillo. Uscirono. Piero diede un bacio al nonno e trovò il suo naso, che era già grosso, accanto a quello del vecchio, che gli parve grossissimo. Si somigliavano ed era quello un rapporto intimo. Poi il 12 di gennaio 1944 si perse negli anni, circa 40, con uno strascico di 3 uomini della polizia tedesca che sparivano nella nebbia delle calli con un rumore di armi. Ora la fuliggine dei tubi delle stufe, il fumo e l'umidità del selciato ritornavano nel sogno. Quel giorno segnò per Piero il momento più felice della sua vita, che egli concentrava tutta negli anni della guerra e del dopoguerra. La penna stilografica lo accompagnava a scuola, attraversava con lui le materie di insegnamento, il latino e il greco. Era un tutt'uno con Plutarco, ma lo accompagnava anche nella campagna di suo nonno, in una stanzetta riscaldata da una stufa, un letto, un tavolo e il dizionario, il Georges. Piero aveva la Olo infilata nel taschino interno della giacca quando udì crepitare o scoppiare. I mitra che fucilavano un prigioniero inglese, pallido e biondino, vestito di stracci contro il muro di cinta della villa. Pensò che se fosse stato lui al suo posto, la penna sarebbe andata in frantumi. Piano piano, Piero non poteva saperlo, la felicità della vita andava esaurendosi. Venne il 45, il 46, il 47 e lì finì, come finisce una vita. Tuttavia in quegli anni Piero visse intensamente la campagna e l'odore della campagna, i tubi di stufa colanti delle calli veneziane, il freddo, la vita dei contadini, la vita col nonno, le semine, i raccolti, le stalle e l'odore di letame quasi dovunque, soprattutto la vendemmia e l'odore del vino. Piero era molto felice quando camminava nella nebbia, in sentieri fangosi, nel cuore della campagna, tra i salici selvatici, con improvvisi scatti di cani puzzolenti alla fuga di una civetta. Passando accanto alle case sentiva odore di polenta e un lieve rancido di maiale. Molto belli erano anche i giorni di prima estate al Lido, con pochi bagnanti, e anche lì Piero era inutilmente accompagnato dalla penna stilografica Olo. In sostanza, poiché la vita di un uomo si riduce sempre agli anni felici, essendo quelli infelici simili in qualche modo alla morte, Piero visse 5 anni e ancora esistevano nella penna stilografica. Ecco perché nel sogno non gli pareva possibile che fosse scomparsa, perché sarebbe scomparsa la sua vita. Egli dunque stava per morire, o era già morto. Da qui il sogno angoscioso. Con questa certezza Piero si svegliò piangendo disperato. Accanto a lui la moglie, forte e senza sogni angosciosi, dormiva. Nella stanza accanto dormivano i 2 figli che egli amava tanto. Anche essi, senza angosce, e ancora vivi. Persone viventi che egli amava, sì, ma diverse da lui, dal suo proprio naso grande e grosso, dalla penna stilografica, dai tubi di stufe colanti. Così diverse e lontane gli parevano ora, perché estranee a quei 5 anni di felicità, dunque di vita. Che c'entravano loro con la Olo, bianca e azzurra, con pennino 18 carati, con la boccetta di inchiostro, con le varie boccette di inchiostro e con Plutarco? Nulla. Dopo, tutto era avvenuto dopo, e quel dopo non contava un bel nulla se la penna non era lì nel comò, come sempre e da sempre. Si alzò dal letto. La moglie socchiuse un istante gli occhi azzurri e chiari, di smalto, ed ebbe un gemito di protesta che Piero non sentì come nulla si sente quando rimbomba la disperazione. Si precipitò al comò e, come nel sogno, aprì immediatamente il secondo cassetto, guardò nell'angolo a sinistra accanto ai fazzoletti e alla lavanda. La penna era lì, c'era, appoggiata, bianca e azzurra, le screziature bianche madreperlacee erano ormai gialline, a testimonianza non soltanto che lui era vivo ancora, ma che era stato felice 5 anni. Piero inforcò gli occhiali, la strinse tra 2 dita, svitò il cappuccio, guardò il pennino con qualche traccia secca e rugginosa di inchiostro. Subito la baciò 2 o 3 volte, piangendo e ridendo nel cuore della notte. Poi richiuse il cappuccio, la posò dove stava. Andò in cucina con la sua piccola agenda tra le mani. Come suo nonno, ogni giorno scriveva piccoli appunti sul librettino omaggio della banca. Scrisse: notte del 17 luglio 1979. Sognato di non trovare più la Olo regalata dal nonno. Grandissimo dolore di cuore e sicuro di esalare l'anima a Dio. Cercata subito nel comò, ritrovata e baciata. C'era, cara, cara. Tornò a letto. Dormì senza sogni, come quasi sempre. Al mattino, come ogni giorno, andò in banca a piedi, di buon umore, come sempre del resto. In più del caffè, comprò e mangiò con grandissimo piacere una pasta. Era aumentata. 250 lire. Solitudine. Un giorno di un gelido inverno, una donna di mezza età, che da mesi girava raminga, decise di accettare l'invito di un amico che abitava in una campagna piatta e umida insieme alla figlia. Decise è dire troppo, perché il suo animo era tale da non saper decidere mai nulla, e la trepidazione dominava il suo corpo fino alle mani e alle dita con anelli ricordo che tremolavano dentro i guanti di lana. Era trasandata, curava poco se stessa, non si truccava, portava in valigia 4 vecchi abiti e addosso un pellicciotto spelacchiato e scucito che cadeva da tutte le parti. Non era povera, ma era come fosse poverissima. Non era vecchia, ma era come se lo fosse. Non era brutta, anzi, nel suo dolore una grande bellezza partiva dagli occhi e dalla bocca, che erano quasi sempre atteggiati al pianto e alla commozione. Era sola, questo sì. Dunque arrivò con le sue valigie in una piccola stazione e poi in una minuscola casa dall'aspetto povero ma ben riscaldata di 2 o 3 stanze. Era sera, trovò apparecchiato un modesto pranzo, mangiò, andò a dormire insieme con la figlia dell'amico. 2 letti erano tutta la mobilia. Durante la notte fuori soffiò il vento, che aveva grandi spazi dove correre e solo pochi stecchi dove sibilare. A una certa ora accese la luce, pochi secondi perché si era dimenticata di prendere il sonnifero, e vide la figlia dell'amico che dormiva accanto, sepolta sotto le coltri e il guanciale. Era una donna, ma aveva l'aspetto di una bambina. Dormiva profondamente, con i pugni chiusi e le gote rotonde e morbide scottavano. La donna ricordò l'assenza di figli nella sua vita, spense subito la luce e finalmente credette di addormentarsi. Udì gli ultimi scoppi del fuoco al pian terreno. Il mattino dopo era bel tempo e la donna, infilati degli stivali di gomma e il pellicciotto cadente, fece una lunga passeggiata nella campagna invernale, nel fango, incontrando rovi e sterpi. Ma incontrò anche un branco di faraone lontane e trovò per terra una penna di quegli animali che raccolse. Poi incontrò una contadina, finalmente arrivò al paese. Lì comprò i giornali, qualcosa in farmacia e scambiò 2 parole al caffè. Quando disse di chi era ospite, fu guardata non più come una straniera, ma come una persona in certo qual modo del paese. A mezzogiorno tornò a casa attraverso i campi, lievemente rasserenata. Trovò l'amico. Subito arrivò anche la figlia che lavorava in fabbrica e parlarono un poco, sempre con il focolare acceso. La voce della ragazza somigliava ai gridi delle rondini ed era fuori stagione. Poi la ragazza tornò in fabbrica e i 2 passarono il pomeriggio, che cominciò immediatamente a calare verso la notte, parlando di altri amici che abitavano in città lontane. Anche questo rasserenò un poco la donna. Alla sera giunsero a cena 2 amici della figlia, un giovanotto che lavorava in fabbrica e la fidanzata che studiava medicina. Si intrecciò una conversazione e la donna, sconosciuta ai 2 nuovi venuti, fu argomento di grande interesse per i 2, ad eccezione della donna che aveva modi, pensiero e linguaggio di città, come in parte anche il padrone di casa. Tutti gli altri avevano modi, pensiero e linguaggio di campagna, un po' come i topi di campagna e i topi di città. Ma a differenza dei topi della favola, anche se lo stile, il suono e i modi della conversazione erano diversi, il sentimento, non detto, era lo stesso. L'attrazione che tutti irresistibilmente provavano verso la donna. Avrebbe dovuto essere l'inverso, data appunto la differenza di tono della donna e degli altri. Di solito non c'è attrazione tra gli abitanti di città e quelli di campagna, ma così avvenne. L'uomo si chiese il perché e l'avrebbe chiesto direttamente anche agli altri se non fosse stata presente anche la donna, ma credeva di capire. La simpatia di tutti verso di lei apparteneva a uno di quei momenti di difficoltà della vita, un po' come accadeva in tempo di guerra, quando un fuggiasco si rifugiava in una casa di campagna. Già, pensò l'uomo, ma ci sono fuggiaschi e fuggiaschi. Alcuni erano insopportabili. Guardò la donna, che conosceva da molti anni, e si provò a giudicarla. Era impossibile, e già questo era un dato di simpatia. Poi la giudicò con il cuore e la mente degli altri, compresa sua figlia. Questa stava seduta accanto alla donna e in modo inconsapevole e quasi infantile le stava appiccicata fianco contro fianco e la guardava da sotto, essendo più piccola, da dietro le grandi lenti degli occhiali. La studentessa parlava con un leggero sorriso. Il giovane operaio anche lui guardava la donna. Erano tutti conquistati dalla donna ed egli non sapeva se esserne fiero o geloso. Si chiedeva che cosa li conquistava, il perché della simpatia, e provò a darsi alcune risposte. Nessuna soddisfacente. La novità, la curiosità, l'attrazione, che non significava però simpatia, che sempre prova la gente di campagna verso la gente di città, la diversità, il linguaggio, l'interesse dimostrato dalla donna per tutti gli argomenti espressi dagli altri. Forse semplicemente il timbro di voce, i modi gentili di signora, l'aspetto dolente, le mani, lo sguardo. Certamente tutto questo, ma c'era dell'altro, appunto la simpatia. Ma allora, cos'era la simpatia? Erano le 11. Tutti si salutarono, tutti andarono a dormire. Quella notte sia l'uomo che la donna restarono invece un bel po' svegli. Udirono il rumore della pioggia che era giunta a spezzare il gelo. La figlia invece dormiva nel suo proprio calore dentro quello del piumino e non si accorse di nulla. Era giovane. Il giorno dopo la donna fu invitata a colazione da altri amici che abitavano poco lontano e l'uomo andò a prenderla dopo mangiato. Arrivò che chiacchieravano e non gli sfuggì la stessa cosa della sera precedente. La simpatia era diffusa nella stanza e il padrone di casa, un bell'agricoltore con barba, baffi e occhi chiarissimi, teneva stretta alle spalle la donna in atteggiamento protettivo. La moglie, anche lei, guardava la donna con occhi socchiusi e brillanti. Anche qui era la novità, il tempo trascorso, il piacere di rivedere una persona che non si vedeva da anni e che sempre, quando accade, sembra ringiovanire. Era tutto questo, ma questo non era l'essenziale. L'essenziale sfuggiva all'uomo, o voleva che gli sfuggisse. In realtà egli aveva in mano l'essenziale, ma era questo un aspetto della vita che troppo spesso lasciava che gli sfuggisse, perché la presa della sua mano diventava inerte. Non per disinteresse né per insensibilità, ma per noia. Ogni giorno di più la donna si rasserenava. Erano passati pochissimi giorni, 3 o 4, e ogni giorno di più ella conquistava la simpatia delle persone che conosceva anche di sfuggita. Uno di quei giorni cadde il suo compleanno. 3 o 4 persone che aveva visto assai poco le portarono dei fiori e anche un dolce. L'amico non ne fu affatto stupito, ma trovò da riflettere sulla coincidenza dei due sentimenti, quello dei paesani, attratti dalla donna, e quello della donna che si rasserenava via via. Egli conosceva abbastanza bene i motivi del dolore di lei e li leggeva molto più profondamente nelle sue mani o in alcuni atteggiamenti un po' curvi o in certi passetti malsicuri, in certi inciampi nel terreno, nell'approfondirsi di 2 rughe intorno alla bocca che nelle parole che lei diceva. Non si spiegava però il sentimento dei paesani. Esso andava ben oltre i modi di lei. C'era perciò intorno alla donna, e non per motivi superficiali e banali come quelli che aveva pensato, del fascino che non avrebbe dovuto esserci. Non era giovane, non era bella, non era ricca, non portava bei vestiti, anzi era quasi una stracciona che si aggirava nella campagna alle ore del mattino, ogni tanto chinandosi a raccogliere un sassolino, una piuma, uno stecco che essi non vedevano. Eppure c'era in lei qualcosa di imponente. Nel senso che si imponeva, che contrastava sia con i suoi modi sia con il suo aspetto. Egli stesso ne era preso, come gli altri, come tutti. La guardava quando appariva dal fondo di un grandissimo prato e si avviava verso casa. Era poco più di un punto marrone e peloso, pensieroso ed errabondo. Egli apriva i vetri e subito la donna alzava il volto, qualcosa di pallido, e dopo il volto alzava il braccio in un gesto di saluto, poi allungava il passo verso casa. Bastava questo e l'uomo era preso, come tutti gli altri. La donna si rasserenò un poco, quel tanto da non piangere sempre come l'uomo l'aveva vista e per questo l'aveva invitata, ma non abbastanza da ritornare ad essere quella che lui conosceva da molti anni. Passò ancora qualche giorno, poi la donna partì, con la promessa a tutti quelli che la invitavano di ritornare presto. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.